Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con il regista Giovanni La Parola per presentare il suo film Il mio corpo vi seppellirà, on demand da venerdì 12 marzo 2021. Giovanni, bentrovato. Bentrovato, grazie Federico, ciao. Come lo presenteresti il tuo lavoro? È un western borbonico con punte di pulp e indaga la questione meridionale dei briganti all'alba dell'unità italiana. Com'è nato il progetto? Da un cortometraggio che ho realizzato nel 2012 che si chiama Cusuto un Coddu, che in siciliano vuol dire cucito addosso, ed era anche quello un western ambientato durante l'unità italiana e raccontava la vicenda di un sarto che veniva sequestrato da un campiere che organizzava una rivolta di contadini e impiccavano il padrone e si sostituivano al feudatario, al signorotto per cui lavoravano. Da lì è nato questo progetto che poi si è sviluppato anni dopo in un film. Sono riuscito, grazie a questo cortometraggio che aveva avuto un buon seguito ai festival, a coinvolgere Olivia Musini e poi successivamente Andrea Paris, Matteo Rovere e Rai Cinema per trasformare quella vicenda in qualcosa di un po' più complesso e quindi è nato questo film. Su che documentazione avete lavorato per tirar fuori una storia di questo tipo? La documentazione è stata abbastanza ampia, io mi sono documentato molto sulle storie dei veri briganti e delle brigantesse, soprattutto queste donne molto emancipate che si organizzavano in bande, si vestivano da uomini, andavano in giro a fare saccheggi e rubando un po' dalla storia sia ufficiale che non ufficiale, giocando anche un po', rimescolando le carte, anche usando dei nomi esistenti come per esempio Ninco Nanco, un famoso brigante, credo lucano, insomma mettendo insieme tutte queste ispirazioni della storia ufficiale sono andato di immaginazione, abbiamo creato una struttura anche con la sceneggiatrice Alessia Lepore, un film più fiabesco dove fondamentalmente tutte queste situazioni ispirate a casi veri della storia poi trovano un loro compimento in una stilizzazione di genere. Ecco, su quali aspetti di questa tragica vicenda del passato italiano hai voluto centrare l'attenzione? Nel film l'attenzione viene spostata a un certo punto sul discorso per esempio del cambio monetario, cioè l'invasione dei piemontesi nel sud Italia, oltre a essere stata una guerra quasi civile, nel senso occupavano questi territori, li saccheggiavano, deportavano sia i soldati borbonici, alcuni di questi addirittura cambiavano bandiera e si arruolavano con la Guardia Nazionale, diventavano, come succede anche nel film, di un personaggio di Murat che diventa praticamente una specie di spia, di cacciatore di briganti. Diciamo che il tema a un certo punto si sposta anche su un secondo tema, si parte dal brigantaggio ma per poi parlare anche di come nel sud Italia i feudatari tutto sommato hanno svenduto le loro terre al nuovo potere per poi doversele ricomprare e c'è stato un cambio monetario che ad alcuni ricorderebbe un pochino forse anche quello che abbiamo fatto tra la lira e l'euro. Ora non vorrei creare un parallelo così violento, però diciamo che il cambio monetario all'epoca è stato un disastro. Le risorse, i giacimenti d'oro, i ducati d'oro venivano scambiati con una nuova lira italiana e sappiamo benissimo che dopo l'unità d'Italia un po' l'asset di tutto il paese si è rovesciato in qualche modo. La ricchezza del sud Italia veniva portata al nord dove si investiva in industrie. Il nord Italia ha cambiato diametralmente economia grazie all'unificazione. Che idea ti sei fatto su quella guerra che è stata, insomma, come dicevi giustamente, una sorta di guerra civile con migliaia e migliaia di morti? Ero abbastanza sconvolto da certe cronache dell'epoca che spesso sono state anche minimizzate nella storiografia ufficiale. Mi sono fatto un'idea di un paese, di un sud Italia che non voleva essere necessariamente unito e soprattutto di una popolazione vasta di persone, di contadini che anche dopo l'unificazione erano meno liberi di prima, addirittura quello che coltivavano non ne potevano usufruire. Per parecchi anni dopo l'unificazione la condizione delle campagne, delle persone più disagiate, dei poveri, è stata molto dura. In più c'è stato questo fenomeno del brigantaggio che si tinge di colori anche molto violenti in alcune storie, queste persone che si davano in qualche modo alla macchia, e poi le figure di queste donne che sicuramente sono un caso abbastanza unico nella storia, nel senso che erano esempi di autodeterminazione, di emancipazione, che oggettivamente poi non si sono più ritrovati nei successivi 50 anni della nostra storia italiana. Una messa in scena spettacolare, anche una bella ricerca delle location e anche nella scelta dei costumi. Ecco, dove avete girato le riprese? Le riprese sono state realizzate tutte in varie zone della Puglia, dalle Murge a Gargano, a Salento, abbiamo girato delle cose aeree, nella zona di Gravina. La Puglia Film Commission ha appoggiato il film attraverso la logistica e anche, credo, tramite la Film Commission con un finanziamento. E il film ha potuto usufruire di splendide location naturali, perché avevamo l'80% di esterni, e la vegetazione, poi insomma il territorio pugliese ha una macchia mediterranea molto simile a quella siciliana, quindi da un lato è stata anche una questione strategica, produttiva, dall'altro lato comunque avevamo a che fare con un territorio molto ricco e suggestivo. Questo titolo? È un gioco, perché ricorda anche la traduzione italiana di un film di Howard Hughes, che in verità nel titolo originale, se non sbaglio, era Fuori legge, una cosa del genere. Comunque Il mio corpo ti scalderà, ma non è un omaggio a quel cinema, bensì deriva da un album delle Hall che si chiamava My Body is Hand Grenade, e siccome io cercavo un titolo vintage mi piaceva questo titolo di questo album, e quindi da lì l'ho declinato nel Mio corpo ti seppellirà, che ha un senso rispetto chiaramente alla protagonista occulta della storia, che è questa donna errante trovata tra le macerie di una capanna, che poi lentamente ricorderà il suo passato e metterà in atto una vendetta. Il mio corpo vi seppellirà, on demand da venerdì 12 marzo 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Giovanni La Parola. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Ottimo, grazie Federico, a presto. Anna Maria Gallone, Alessandra Speciale della 30ª edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina online dal 20 al 28 marzo 2021. Un'edizione allora speciale, raccontacela un po'. Sì, allora, un'edizione speciale perché arriviamo innanzitutto ai 30 anni, un traguardo ragguardevole. Avremmo dovuto festeggiarli lo scorso anno, però purtroppo per la pandemia abbiamo dovuto rimandare. Ahimè, la pandemia non è passata e quindi ricorriamo a una nuova formula. Infatti saremo su MyMovie e sarà possibile vedere film con un accredito. Non solo, ma poi ci sarà anche la possibilità di discutere con i registi, col pubblico e con noi del festival per commentare il film. Quindi, se da un lato siamo tristi perché il contatto fisico, la presenza dei registi sul palco, gli spettatori dal vivo, insomma, qualcosa di molto molto forte, molto bello, molto intenso, d'altra parte però c'è anche un lato positivo, che ci potranno vedere da tutta Italia. E se da un lato cambia la modalità, non cambia però la qualità e la quantità dei film che presentiamo. Infatti la zebra prismatica vestita festa dorata quest'anno ci guida dalla A allo Z, perché sta a significare l'ampia scelta di film. Ci sono arrivati, pensa, più di 600 film, ne abbiamo scelti 50, ci sono grandi nomi già conosciuti, ma noi diamo anche un posto preferenziale ai nuovi linguaggi e ai giovani. Facciamo una panoramica sul festival? I soliti tre concorsi che ormai ci accompagnano da anni: il concorso lungometraggio Finestre sul mondo con i lungometraggi da Africa, Asia, America Latina, e poi il nostro cuore che rimane africano con il concorso cortometraggi africani, e il concorso che ormai c'ha più di 10 anni dei film italiani girati in questi continenti o su tematiche relative alla multiculturalità, diciamo, in Italia. Sezione che diventa sempre più importante nel nostro festival, perché evidentemente questi temi anni ispirano i nostri registi. E poi la sezione flash, che è la sezione delle grosse anteprime, dei film che hanno vinto grossi premi nei festival internazionali, e poi la sezione delle commedie, quest'anno dedicata a una commedia brasiliana, un humor amaro sulla corruzione del Brasile contemporaneo, Trisummers, e una sezione dedicata alle donne, quest'anno in linea anche con un palinsesto che il Comune di Milano ha lanciato dei talenti delle donne dal 2020, che continua ancora nel 2021, ma era anche una cosa che volevamo fare da tempo, una sezione in cui abbiamo scelto 5 registe, 5 film recenti, scelte tra quelle registe che meglio dal nostro punto di vista rappresentano le nuove tendenze cinematografiche e le questioni più urgenti e rilevanti delle donne di questi continenti, ma stanno anche contribuendo in qualche modo a un cambiamento sociale e culturale nel loro paese, introducendo proprio elementi di novità e di rottura nella rappresentazione dei personaggi femminili. Quindi è stata, insomma, una scelta molto molto precisa, che sarà tra l'altro seguita da una tavola rotonda sabato 27 alle 17:30 con tutte le registre del festival, proprio per approfondire e capire il loro processo anche di costruzione degli stereotipi e l'impatto soprattutto che questi film ha avuto nel loro paese. E per dirvi, stiamo parlando di Ind Bujema con Noura Stream dalla Tunisia, di Shahad Amin con Scales dall'Arabia Saudita, per poi arrivare anche negli altri continenti come Lina from Lima dal Cile. Quindi sarà una bella panoramica sul cinema femminile che arriva dal resto del mondo. E avremo con noi anche una regista italiana, Michela Occhipinti, che ha presentato 2 anni fa circa a Berlino, che è la prima regista italiana a girare un lungometraggio con una protagonista nera in Africa. E quindi, insomma, doveva essere la nostra presidente di giuria, infatti ha accettato con grande entusiasmo, e avremo anche lei in tavola rotonda. Facciamo anche un bilancio di questo trentennale. Noi abbiamo cominciato con una sfida, non si era mai parlato di cinema africano in Italia, abbiamo aperto un piccolo festival alle colonne ticinesi, era naturalmente soprattutto frequentato da africanisti, poi man mano ci siamo allargati fino ad arrivare negli ultimi anni a 4 sale, è cambiato il pubblico che si è ampliato tantissimo, è una cosa che ci fa molto piacere, partecipano al festival anche le comunità straniere di Milano, quindi senz'altro c'è stato un allargamento, non solo, ma anche un allargamento di confini, perché nel 2004 abbiamo deciso di allargare il festival anche all'Asia e all'America Latina. Punto primo, pensiamo tuttora che i confini siano sempre più labili. Molte delle produzioni sono fatte in Europa, sono pagate dall'Europa, e i registi vivono in un altrove non bene definito, quindi pochi sono rimasti in Africa a girare i loro film, e altrettanto per gli altri continenti. E poi volevamo anche favorire, su richiesta proprio dei registi africani, una specie di uscita dal ghetto, cioè la possibilità di partecipare a una panoramica più universale e soprattutto avere degli scambi anche produttivi tra i vari continenti. Ci saranno in questa edizione online possibilità di interazione con il pubblico? Sì, assolutamente, perché i film andranno tutti su My Movies, come ormai la maggior parte di festival che l'anno scorso e quest'anno stanno andando online per ovvie ragioni. Però noi vogliamo invitare il nostro pubblico a seguirci sul nostro sito, e sul nostro sito, iscrivendosi, riceveranno una newsletter, per cui ogni giorno, c'è anche ovviamente un programma per questi incontri, organizziamo in contemporanea, diciamo con le anteprime che passano su My Movies, invece dei webinar dove il pubblico può partecipare e incontrare il regista. Questo è un elemento per noi imprescindibile, perché l'incontro con l'autore penso che sia proprio una delle caratteristiche che a un festival non può mancare. Vedere un festival semplicemente su una piattaforma streaming non c'è molta differenza che andare su Netflix, se non che hai chiaramente il privilegio di poter godere di una selezione. Però l'incontro è importante, quindi stiamo invitando il nostro pubblico a seguirci, e quindi ci saranno tutti i giorni alle 18 degli incontri con gli autori, alla sera dei Q&A dopo le proiezioni dei film, a degli appuntamenti che noi diamo specificatamente, cioè cerchiamo di costruire un itinerario in modo che ci sia virtualmente però come un seguito del festival dal vivo. C'è il film di apertura a cui tieni particolarmente? Sì, è un film che mi ha veramente turbato, mi è piaciuto moltissimo, tra l'altro è stato anche proposto per l'Oscar, è uscito proprio ieri, mi dispiace molto, non è arrivato nella gran finale, però è un film nel suo genere unico, estremamente originale. Il regista è Philippe Lacoste, ivoriano, che già aveva avuto un grande successo con il suo precedente Run, che era stato anche questo proposto agli Oscar. Questo però è un film che tratta di un tema mai esplorato, quello di una prigione africana, una prigione tremenda in cui dovrebbero vivere 1500 prigionieri e ne vivono 5000. Potrebbe esserci il caso, ma non è così. È coordinata da un capo, e questo capo sceglie il giovane ultimo arrivato perché, secondo la tradizione, nella notte di luna rossa deve raccontare fiabe, fare racconti fino all'alba come Scheherazade. E da qui uscirà tutta una serie di storie che si ramificano e tra l'altro raccontate con una camera fluida e con una grande capacità del regista di trasmettere non solo immagini ma anche suoni e estreme suggestioni. Ci lasci tutti i riferimenti web? Il sito, tra l'altro, nuovissimo di Fiamma, fescal.org con 3 A, Fescal, e questo, diciamo, è il riferimento base. Poi ovviamente la piattaforma su My Movies, però come dicevo prima vi consiglierei di stare sul sito, perché sul sito trovate anche gli altri appuntamenti. 30ª edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia America Latina online dal 20 al 28 marzo 2021. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie. Grazie a te e vi raccomando, vi aspettiamo tutti. Con Mimmo Calopresti del Nuovo Cinema Aquila per presentare la seconda edizione del concorso di cortometraggi Free Aquila Festival e poi per parlare delle strategie di riapertura. Mimmo, ben trovato. Ciao Federico, eccomi qua. Dimmi. Mi racconti cosa un po' facciamo? Cosa si muove? Sì, sai, c'è questa cosa qui che bisogna riaprire, noi ci lavoriamo con grande attenzione, ma sai, qui bisognerà capire come finisce questa storia. Però abbiamo cominciato già a programmare, ma noi vogliamo riaprire con tutte le nostre forze. Adesso cominceremo in realtà con Free Aquila, che è un concorso di cortometraggi, il secondo anno che lo facciamo, ha avuto un bel successo l'altra edizione, e lo faremo in streaming, incredibilmente per noi, no? Perché è l'unica possibilità che ci abbiamo, ma è anche un modo per tenere un collegamento con il nostro pubblico, no? Che è un pubblico che più facilmente viene in sala. Però credo che in futuro saremo costretti, come tutti, e forse può diventare un'opportunità per l'Italia, non lo sappiamo, di lavorare contemporaneamente nelle sale, in streaming, eccetera. Dico perché è una buona possibilità. Quindi dal 27 al 31 c'è Free Aquila. L'anno scorso ha avuto un buon successo perché è un concorso di cortometraggi molto libero, senza tante costrizioni. Di solito no, ti ritrovi fronte al fatto che devono avere un tema, una cosa, una durata, eccetera. Insomma, noi giochiamo su quella parola free, ogni tanto di essere liberi deve funzionare, capito, in qualche maniera. Quindi, i giovani, come dico io, del Cinema Aquila si impegnano con grande forza in questa iniziativa perché la considerano molto loro, molto nel loro modo di essere, e noi ci mettiamo un po' da parte, secondo me sono anche bene ogni tanto. Senti, ci sarà modo di incontrare online anche gli autori, le autrici dei cortometraggi? Assolutamente sì, faremo la serata dei vincitori online, faremo gli incontri, facciamo tutto come se fosse il stesso. Io quest'anno ho partecipato già molto di film. Io la verità poi mi manca sempre la sala, no? Certo. Dal punto di vista del lavoro, ma anche sai dal contatto, perché alla fine la distanza tra le persone, gli autori, eccetera, soprattutto questi tipi di festival, no? Che sono momenti di incontro, no? Anche tra gli autori, si incontrano, si vedono con i loro amici, è una socialità importante, no? Quindi noi ci troviamo con lo stesso problema i nostri figli, a scuola, che come dire, finiscono per perdere una parte importante della vita, che è quella della socialità. Ecco. Sì. Questo virus, da questo punto di vista, colpisce duramente, secondo me. Cosa state preparando anche in vista della riapertura? Cosa si sta muovendo? Nella riapertura c'è come idea di fare una serie di festival e di rassegne, di puntare molto per esempio da riproporre un cinema di ricerca, se vuoi, di riproporre dei film che non sono visti. Oggi, per esempio, tu c'è le piattaforme, c'è questo, c'è quell'altro, se vuoi vedere un film di Germi forse non ce la sai. E allora, per esempio, noi punteremo per esempio su quest'idea di far vedere un cinema da riproporre, da rimettere in pista. Poi noi lo leghiamo molto al territorio, no? Per esempio ci piacerebbe far vedere il ferroviere di Germi che è girato lì al Pigneto, in quella zona lì, no? Il Pigneto operaio che proponeva Germi in quel film. Quindi è un'idea di rassegne, festival, incontri, perché puntiamo al fatto che la sala riapra, no? Che entra di nuovo in azione. Poi in questa fase in cui la certezza di quello che uscirà sul mercato è enorme, cioè nessuno di noi sa cosa ci aspetta, non sappiamo come usciranno, come, quelli che abbiamo perso in questo periodo verranno riproposti, non lo so, veramente c'è una specie di confusione generale per quanto riguarda le sale con cui dobbiamo confrontarci. Quindi, per esempio, l'idea di quando riaprire, sicuramente non appunto dal 27 al 31 che siamo in streaming, probabilmente spuntiamo sul fatto che a maggio ce la facciamo, insomma, di tornare in sala. Per saperne di più su tutto quello che si sta muovendo per il nuovo Cinema Aquila, c'è il sito internet e la pagina Facebook, giusto? Assolutamente, noi abbiamo lavorato molto in questo periodo per informare attraverso il sito, attraverso la newsletter, la pagina Facebook. Alla fine è lì, insomma, che si sta giocando tutto in questo momento, come l'informazione. E chi più vuole le radio continuano a essere, come dire, una delle nostre forze, no? Sto pensando proprio in questo momento che uno dei luoghi dove è più facile far passare certi discorsi, le cose che proponiamo, eccetera, sono le radio. In questo periodo c'è un ascolto veramente forte, no? Nella radio. Sì. Interessante questa cosa, che l'immagine, no? È così selezionata ovunque, eccetera, che la radio ti permette di avere un rapporto quasi più intimo con le cose che succedono. Anche l'esplodere del fenomeno dei podcast. Assolutamente, assolutamente. Questa vittoria della parola è veramente incredibile. In questi giorni stavo pensando e lavorando proprio su questo, no? L'idea, per esempio, di cominciare a raccontare via podcast, invece di pubblicare, invece di scrivere, no? Quello di parlare. È un fenomeno interessante, molto interessante. È un ritorno a qualcosa che è così, che forse ci appartiene fortemente, no? Eh sì, la memoria orale. Sì, ci appartiene molto. Cioè. Poi sai, tutto questo come sempre crea problemi, no? Perché allora un libro stampato magari vince sulla rivista, che ne so. Però ogni volta che c'è una novità, che può essere anche positiva, no? Ti risolvi col fatto, ti crea un problema. Insomma, quindi le contraddizioni bisogna affrontarle, no? Sì. Affrontiamole. Allora, intanto ricordiamo la seconda edizione del concorso di cortometraggi Free Aquila Festival dal 27 al 31 marzo 2021 e poi rimandiamo a tutte le novità che si stanno muovendo per il nuovo Cinema Aquila alla pagina Facebook e al sito internet. Un saluto e un ringraziamento a Mimmo Calopresti. Mimmo, un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. A presto, Federico, a presto. Con Alessandro Loprieno, ideatore e curatore di WeShirt, la piattaforma on demand del cinema breve. Alessandro, ben trovato. Ciao, grazie mille per l'invito e ben trovato anche a te. Presentaci un po' questo progetto. WeShirt è il prodotto della mia passione per il cinema, mescolato con gli anni di esperienza nell'ambito della tecnologia, della finanza, tanti viaggi fatti nel corso della mia vita negli ultimi 10 anni, tanto studio e soprattutto tanta passione, con una mentalità che porta a innovare un ramo del cinema che è rimasto, diciamo, come una palestra per registi, perché appunto il cinema breve in realtà origine è proprio alla fine dell'Ottocento, quindi il cinema nasce col cinema breve, con i film che erano dei film brevi, solo che all'epoca non c'era la distinzione tra cortometraggio e lungometraggio, perché i film nel primo ventennio, trentennio del cinema erano film brevi, che poi hanno subito un'evoluzione grazie all'industrializzazione del cinema e sono rimasti un prodotto sempre affascinante per i più cinefili, però mai portato all'attenzione del grande pubblico come un prodotto di intrattenimento di tutti i giorni. Quindi We Short ha la missione di portare la visione di un film breve alla scelta quotidiana di tutti i giorni delle persone, insomma, che guardano film e serie. Quindi scegliere di guardare un corto come una scelta naturale, ecco, non forzata da dinamiche che portano magari a vederlo come una nicchia, ecco. Come è organizzato il portale? Il portale è molto simile alle piattaforme che le persone già oggi utilizzano. La user interface è molto semplice. Quando parlo di We Short dico che dentro We Short il pubblico troverà il grande cinema in formato breve, perché di fatto questi film non sono assolutamente da sminuire solo per la durata, ma sono veramente grande cinema, grande intrattenimento, però in un formato breve che consente anche l'utilizzo in lassi di tempo nella giornata dove non abbiamo di certo il tempo per guardarci un film. Vedi una pausa pranzo, vedi l'attesa in sala d'attesa o mentre si raggiunge il posto del lavoro in metro, in bus, in treno, quindi tanti lassi di tempo di mezz'ora, tre quarti d'ora, 15 minuti, dove invece una persona che ama il cinema o anche chi non ama il cinema potrebbe preferire di guardare un film che ti regala quell'emozione che solo il cinema può dare. C'è una suddivisione in categorie? Al momento nel nostro catalogo abbiamo creato una sorta di cestino con tante caramelle, una diversa dall'altra, permettimi la metafora, però assolutamente sì, cioè dopo la premiere, con l'espansione del catalogo, con l'inserimento di più film, avremo categorie di tutti i generi, ma anche film un po' più autoriali, anche dedicando uno spazio al cinema africano, che è un cinema che io ho imparato ad amare nel tempo e su cui punto tantissimo. E abbiamo anche un manager in Ghana che fa parte del progetto, quindi comunque diamo spazio al cinema che va oltre i confini di quello che oggi le persone conoscono. Ci sono anche altri contenuti come interviste o approfondimenti? Sicuramente nei contenuti dei film ci saranno, oltre al trailer, contenuti speciali che potranno includere anche interviste, anche se al momento le interviste con gli autori preferiamo comunque farle sui nostri canali social, perché è bello anche valorizzare l'autore non solo dentro la piattaforma ma anche fuori, perché poi l'autore ha tante piccole spiegazioni artistiche, anche curiosità sulla propria opera, che è bello raccontare e quindi condividere con il pubblico. Però sì, abbiamo anche in progetto di fare delle cose particolari anche all'interno della piattaforma, di caricare dei contenuti speciali, ecco, sì, questo è il piano. Quando è partito tutto e come sta viaggiando? Il progetto ce l'ho avuto in gestazione per 2 anni. Ho ideato We Short 2 anni fa, e mi sono preso 2 anni di ricerca e sviluppo, creazione di tutta una serie di presupposti, e avevo già 2 anni fa intenzione di lanciarla nella primo trimestre del 2021, e sono stato, devo dire, abbastanza adempiente ai tempi che mi ero dato. Nel frattempo ho creato un team veramente unico, fantastico, composto da figure junior e figure senior con esperienza nel mondo del cinema, del marketing, della finanza, della tecnologia, avvalendomi di partner autorevoli in tutti questi settori. E oggi è il primo giorno in cui la piattaforma ha dato accesso al pubblico, agli addetti ai lavori, quindi siamo ufficialmente sul mercato da oggi. Da oggi si può anche già comprare un abbonamento che con un contributo simbolico dà la possibilità di accedere a vita, quindi senza limiti e senza scadenza, alla piattaforma. Si chiama For Life, costa $49.99, però comunque, a prescindere da ciò, fino al 4 aprile sarà disponibile gratuitamente per tutti coloro che vi entreranno registrandosi e potranno guardare tutti i contenuti che abbiamo a bordo, che contano un catalogo variegato, selezionato dal nostro comitato di selezione, formato da diverse figure importanti nel mondo del cinema, sia autoriale ma anche del puro intrattenimento. Pensiamo al direttore della rivista di cinema, pensiamo al direttore dei festival, pensiamo al produttore, al mio socio Carlo Fusco, che è un regista che ha fatto più di 10 film con tanti attori di Hollywood, figure comunque che hanno una vasta esperienza, e quindi il pubblico oggi trova anche dei prodotti per i bambini. Vedi i short film di animazione che abbiamo già sulla piattaforma, ce ne sono alcuni che veramente sembrano usciti dalla Pixar, ma invece sono stati fatti da produzioni che appunto prima non avevano uno spazio che valorizzasse i loro lavori, proprio perché non vi erano offerte al pubblico per il cinema breve. Insomma, uno se lo doveva andare a cercare chissà dove su Vimeo, magari c'era anche una password che limitava l'accesso, invece adesso sono disponibili su WeShort. Ci lasci tutti i riferimenti web? Il nostro sito è wishort.com, quindi chiunque atterra sul sito può semplicemente con un click registrarsi lasciando la mail e una password e entrare nella piattaforma, quindi non servono neanche i dati di carta di credito per registrarsi. Solo se hanno intenzione di comprare l'abbonamento e vorranno sfruttare questa offerta, questo abbonamento pagando una tantum. Poi per gli autori che invece vogliono proporci dei corti che magari hanno nel cassetto e non hanno mai distribuito, possono mandare il link per farlo visualizzare al nostro comitato a forward@wishort.com e noi poi gli faremo una proposta di distribuzione che è un contratto di distribuzione a tutti gli effetti. Wishort, la piattaforma on demand del cinema breve, un saluto e un ringraziamento all'ideatore e curatore Alessandro Lopriano. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, in short we trust. Ciao ragazzi. Con Ruggero De Virgilis, il produttore, per presentare il film di Marco Serafini, Il cinema non si ferma, su Rai Cinema Channel da giovedì 18 marzo 2021. Ruggero, ben trovato. Ben trovati. Come lo presenteresti questo lavoro? Questo film è il film della nostra resistenza a quello che stava succedendo un anno fa, quindi all'emergenza coronavirus. Lo presenterei semplicemente con queste parole. È un film che ha voluto essere una risposta a quello che stava succedendo e il modo di un gruppo di maestranze e di attori di far vedere che il cinema non si fermava nonostante i set fossero chiusi. Com'è partito il progetto? Il progetto è partito dallo spavento nel momento in cui ci siamo trovati chiusi in casa in lockdown e dopo una serie di telefonate allarmate di colleghi e amici che erano stati mandati a casa dai vari set. Quindi in quel momento c'è stata l'idea di non fermarsi, di partire, di proseguire con quello che sappiamo fare, cioè fare un film. In un momento in cui sembrava impossibile farlo, secondo me c'è stato proprio il bisogno di continuare e invece di fare un film, di fare un film di fiction e di fare un film narrativo e sceneggiato su quello che stava succedendo. Il progetto è partito semplicemente da quest'idea, cioè dal non volersi arrendere alla situazione. Come avete operato? Innanzitutto ci siamo raggruppati. Io sono l'ideatore del progetto e produttore, ma ho lavorato insieme ad un gruppo ben nutrito. Quindi ci sono i produttori Daniele Fioretti, Daniele Muscolo e Marco Perotti, con cui ci siamo uniti e abbiamo operato inizialmente su due fronti: capire come si poteva girare il film e soprattutto che cosa girare. L'idea è stata semplice: non si poteva spostare materiale, non si poteva noleggiare una cinepresa, una telecamera, non si poteva organizzare un set, quindi come facciamo? Partendo da un presupposto tutto sommato banale, in ciascuna casa al giorno d'oggi ci sono svariate telecamere, webcam, telefonini, fotocamere più o meno amatoriali, quindi partendo dal presupposto che tutti in casa hanno una o più telecamere, abbiamo cercato una maniera in modo tale che si potessero utilizzare per una ripresa cinematografica. Quindi abbiamo fatto vari esperimenti, abbiamo provato a registrare le videochiamate di Skype, abbiamo provato a registrare da WhatsApp, poi abbiamo trovato un workflow che tutto sommato poteva funzionare e ci siamo allineati su quello. Il procedimento inverso è stato: cosa filmiamo? L'idea è stata che avremmo dovuto vedere fin troppi documentari, cose lacrimose sul coronavirus, su quello che stava succedendo e che oltretutto erano partiti anche altri registi con quella che secondo me era una non idea, cioè raccogliamo materiale girato in tutta Italia e poi vediamo di tirarne fuori qualcosa, che tutto sommato è una scelta legittima, però io non ci ho visto nessuna idea di regia. Quindi l'idea è stata invece: facciamo contenuto sceneggiato, quindi non facciamo un documentario, facciamo un film di finzione, un film sceneggiato. Abbiamo contattato degli sceneggiatori, il bravissimo Stefano Piani, che è uno sceneggiatore showrunner che ha fatto un sacco di cose bellissime, e ci siamo fatti venire l'idea su come si poteva impostare il lavoro. L'idea è stata: vediamo che cosa abbiamo a disposizione, non potendo spostare persone o cose in ciascuna casa. Quindi abbiamo contattato gli attori, abbiamo iniziato a intervistarli, tra l'altro con delle domande buffissime, tipo: hai in casa degli oggetti che potrebbero diventare oggetti di scena, hai in casa delle armi, hai in casa dei costumi, che tipo di casa hai, quanti siete, le persone che sono con te in casa possono eventualmente anche recitare o possono aiutarci e così via. Abbiamo raccolto tutte queste informazioni e le abbiamo passate agli sceneggiatori, e i sceneggiatori hanno scritto delle storie, dei copioni esattamente sulle situazioni che avremmo potuto filmare. E abbiamo tenuto come punto fermo quello che stava succedendo, quindi tantissime interazioni umane tra i vari personaggi si sono spostate sul piano delle webcam, delle videochiamate, delle chiamate via Skype, e su questo abbiamo lavorato. Su uno spettro drammaturgico piuttosto ampio, immagino. Assolutamente, abbiamo cercato di raccontare tutte le fasce di età per quanto possibile, abbiamo cercato di raccontare problematiche molto diverse, e poi ovviamente sulla sensibilità di ciascuno sceneggiatore c'è chi ha avuto l'umorismo, chi ha avuto invece un approccio un po' più virato verso il drammatico, chi invece ha fatto una cosa molto più intellettuale, molto più raffinata. Abbiamo cercato però in tutti i modi di rappresentare quello che entrava, diciamo, dalla finestra della cronaca, quindi la persona anziana con le sue difficoltà, perché non tutte le persone più anziane sono brave con la tecnologia, quindi un episodio deriva da questo. Un episodio completamente umoristico che immagina una coppia che doveva divorziare, che invece si trova bloccata in casa insieme a tempo indeterminato. Poi abbiamo cercato di raccontare il mondo dei giovani, quindi degli studenti di liceo che si trovano bloccati in casa con la didattica a distanza. Tutte queste cose hanno composto poi il mosaico del film. Quanti artisti e anche lavoratori e lavoratrici ha coinvolto l'intera operazione? Questo è uno degli aspetti più belli di questo progetto, ha coinvolto circa 40 attori in cui abbiamo cercato di rappresentare anche il mondo del doppiaggio, quindi ci sono anche voci famose, e ha coinvolto una troupe completa di circa una cinquantina di persone, cercando di rappresentare più o meno tutti i reparti che normalmente lavorano alla lavorazione di un film. Quindi c'è stata una costumista, c'è stato un reparto produzione, c'è stato un aiuto regista che faceva gli ordini del giorno, le convocazioni, esattamente come un set normale, per quanto fosse un set completamente anormale. In più c'è stata una collaborazione collettiva anche dal punto di vista creativo sotto vari aspetti, quindi sono 8 sceneggiatori che hanno lavorato al progetto, e in più ci sono state le musiche che sono state realizzate da un collettivo di musicisti, membri dell'associazione compositori musiche per film, quindi 24 compositori che però hanno firmato collettivamente come associazione il progetto. L'operazione ha anche una finalità benefit. Assolutamente, noi abbiamo voluto raccontare quello che stava succedendo con un approccio da commedia, con un approccio leggermente umoristico, con un riferimento che era nel momento dell'ideazione una serie molto carina con Michael Douglas che si intitola Il metodo Kominsky. Ovviamente fuori stava succedendo un dramma, quindi in un dramma va bene fare una commedia, però ovviamente l'orizzonte è stato cerchiamo di aiutare, di dare il nostro contributo in una maniera più alta. Quindi abbiamo scelto di impegnarci tutti quanti a titolo gratuito per sostenere chi stava realmente impegnandosi per il bene di tutti. Quindi il Dipartimento di Protezione Civile attraverso due modalità. Una è la donazione diretta, per cui c'è un IBAN con una causale per chi vuole effettuare una donazione direttamente alla Protezione Civile. Dall'altro punto di vista abbiamo pensato che tutti i proventi di questo film, che poi generalmente in un film sono proventi derivanti dalla vendita sul mercato, andassero devoluti direttamente alla Protezione Civile. Per farlo abbiamo portato una piccola innovazione tecnologica, per cui chi compra il film paga direttamente la cifra pattuita alla Protezione Civile Italiana. Questa donazione viene tracciata attraverso un sistema con la tecnologia blockchain, in modo tale che nelle nostre casse non passa un centesimo. Il Cinema Non Si Ferma di Marco Serafini su Rai Cinema Channel da giovedì 18 marzo 2021. Un saluto e un ringraziamento al produttore Ruggero De Virgilis. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi e buona visione. con l'attore Luigi Di Berti per presentare il film Nonostante la nebbia di Goran Paskaljevic online da domenica 21 marzo 2021. Ben trovato. Grazie, eccomi qua. Come lo presenteresti questo film? Beh, intanto mi sembra un film nutriente, un film utile, un film che aiuta a capire delle cose, a mettere insieme dei colori, che insegna un pochino a non essere razzisti, che insegna a essere aperti verso gli altri. Qualche giorno fa leggevo un articolo nel quale si parlava degli italiani all'epoca del Risorgimento a Londra. All'epoca eravamo noi coloro che scappavano dal loro paese. Adesso abbiamo dimenticato quelle cose lì e invece si ripetono. A volte siamo noi, a volte sono gli altri. Mazzini all'epoca, insomma, faceva il doposcuola per i figli degli italiani emigrati a fare gli sguatteri e gli spazzini a Londra, e adesso siamo noi nella situazione in cui possiamo, come dire, ricambiare. Vabbè, mettiamola così. Non sapevo che Goran fosse morto, io sono veramente dispiaciuto ieri quando l'ho saputo, proprio dispiaciuto, non lo sapevo. Sono trovato benissimo con quel signore, benissimo. Cosa racconta il film? Racconta un atto di misericordia, un atto di generosità, un atto di gratitudine verso quello che ci arriva e che non ci aspettiamo, insomma. E racconta la tolleranza. Anche se si commuove, non sono lacrime, come dire, inutili, non sono i pianti televisivi, sono commozioni dell'anima, è un'altra cosa. Come sei entrato a far parte del progetto? Ah, questa è una cosa a cui non so rispondere. Io conoscevo Amedeo Letizia, forse è nato da lì che mi hanno chiamato, credo, non lo so, francamente non lo so. Mi hanno proposto questa cosa con Goran e io sono andato a fare un colloquio, ho detto, ma sarà un piacere farlo questo film. E così è andata, insomma. Infatti il personaggio è un personaggio tollerante, un personaggio che bilancia, come dire, la rigidità della madre di Donatella. Sono il papà della protagonista, Donatella Finocchiaro, e la mamma è rigida rispetto a quello che sta accadendo alla figlia. E invece papà mi sembra molto più comprensivo, molto più tollerante, è molto più generoso, molto più aperto d'animo. Com'è stato il rapporto col regista? Ottimo, ottimo, assolutamente ottimo, sorridente e preciso, ottimo, francamente ottimo. Come ottimo. Lavorava con gli attori, con gli interpreti? Era molto chiaro, era molto preciso, molto dentro alla storia che voleva raccontare, senza retorica. Infatti quello che ho visto nel film, e mi ha commosso francamente mentre lo vedevo, e mi dicevo no, non commuoviamoci, in realtà mi commuoveva perché arrivava sempre alla soglia della commozione e poi si fermava. Lasciava che ci fosse una rimanenza da elaborare da solo, ecco. Hai trovato che il cast sia stata una buona mescolanza? Sì, francamente sì, francamente sì. E non era facile, perché il personaggio della Finocchiaro è un personaggio che poteva sfuggire e poteva arrivare a delle commozioni, come dire, artificiali, artificiose, esagerate. No, lei è molto intensa e molto trattenuta, molto contenuta, molto, molto. A tutto il film è molto tenuto, tutto il film è a briglia corta. Giorgio Tirabassi, che è anche un eccellente chitarrista, Giorgio è misuratissimo. È intenso come la Finocchiaro. Il film è molto, è credibile e utile. Francamente sono contento di aver partecipato a questa cosa. E mi dispiace che sia il suo ultimo film, una specie di testamento, Chi lo sa, forse. Nonostante la nebbia di Goran Paskaljevic online da domenica 21 marzo 2021, un saluto e un ringraziamento all'attore Luigi Di Berti. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie a voi, buon lavoro, arrivederci. Con Claudia Brignone per presentare il suo documentario La Villa su Io Resto in Sala da giovedì 18 marzo 2021. Claudia, ben trovata. Ben trovati a voi, come va? Bene, grazie, tu? Ce la creiamo in questo strano momento storico, ma cerchiamo di resistere, no? Certo, e certo. Ci presenti il tuo lavoro? La Villa è appunto il mio ultimo lavoro, un documentario ambientato a Scampia, in un grande parco pubblico, che è la villa comunale del quartiere. E mi sono appassionata molto a questo quartiere perché ho cominciato a lavorare lì grazie ad un centro territoriale che si trova nella piazza principale di Scampia, che è adiacente al parco. stando lì, frequentando appunto il quartiere, avevo delle sensazioni molto contrastanti. Quindi se da un lato appunto percepivo anche una bellezza, delle relazioni molto forti, un tessuto sociale pieno di persone impegnate sul territorio. Quindi la mia idea forse di Scampia è cambiata, si è sviluppata un po' nel corso di questo lavoro precedente, e mi sono chiesta io come guardavo questa parte della mia città che conoscevo insomma non benissimo, magari l'avevo solo frequentata per delle occasioni sporadiche, però quando poi inizi ad andare in un luogo quotidianamente è inevitabile, diciamo, per chi prova a fare questo lavoro che si faccia delle domande rispetto a come questi luoghi vengono raccontati. E quindi mi sono ritrovata appunto a dover io stessa scegliere come raccontarlo, e il parco mi è sembrato un luogo molto, molto interessante, perché il tentativo era proprio quello di restituire una complessità, quindi di non raccontare i buoni o i cattivi, ma di raccontare quell'umanità che io avevo visto, avevo percepito, avevo conosciuto, e il parco mi sembrava il luogo più giusto. In questo senso, come lo hai strutturato? Ho capito che quel luogo era interessante proprio perché incontravo delle persone interessanti, delle persone che ho rincontrato più volte e che poi ho seguito, ho filmato più volte. Infatti il film si compone di tante piccole storie, il parco diventa quindi un microcosmo fondamentalmente, è un racconto corale in cui ci sono appunto tante storie diverse, che è stato complicato, è stato più difficile anche montare, perché il film prende tanti temi, non ha un unico tema. Sicuramente il tema della natura, che è quella che ti lascia uno spazio di libertà per esprimerti e per stare bene, che però ci sono appunto storie molto diverse, ci sono delle figure femminili importanti, c'è la storia di un bambino appassionato di animali, c'è la storia di un gruppo di donne che fanno yoga al parco, di alcune adolescenti che hanno dei sogni o che iniziano a fare dei discorsi più grandi di loro, e questo insomma mi faceva molto pensare al fatto che la bellezza della natura andasse a contrasto con le parole delle persone, con i loro visi, con il loro modo di parlare magari napoletano, e questo contrasto mi interessava molto. Che impressioni ne hai ricavato nel complesso, portando avanti le riprese? Il fatto che questa umanità varia è un'umanità che posso trovare nei diversi quartieri della città, che Scampia è un quartiere complesso, sì, difficile, ma come lo sono tutti gli altri quartieri, con i propri pregi e i propri difetti. Ovviamente nei luoghi difficili, i contrasti e la bellezza come la bruttezza, secondo me, vengono un po' amplificati, che poi è anche una caratteristica un po' della mia città in generale, Napoli. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? C'è una pagina della produzione, il film è stato prodotto da Videomance, una produzione friulana, e Rai Cinema. Sulla pagina Facebook o sul sito di Videomance troverete tutte le informazioni rispetto a tutti i cinema che hanno scelto di programmare La Villa. La Villa, documentario di Claudia Brignone su Io Resto in Sala da giovedì 18 marzo 2021. Un saluto e un ringraziamento, a risentirci presto. Certo, grazie mille, grazie a voi. Con Paolo Paci del collettivo di filmmaker Opponiamoci per presentare il suo documentario Darien, La rotta fantasma. Paolo, ben trovato. Ciao, buongiorno. Di cosa si tratta? Sono pezzi che io ho montato, non li ho girati io, quindi io ho fatto una ricerca di immagini e le ho montate, quindi appartengono a varie televisioni, cose già fatte. Quello che io ho fatto è costruire una storia per chi non la conosce. Si è parlato molto di immigrazione in Europa, la rotta balcanica, e anche per gli Stati Uniti si è parlato, io già ne ho parlato in un altro documentario, Roma, Texas, dell'emigrazione dal Centro America verso gli Stati Uniti e cercare di passare la frontiera degli Stati Uniti in qualche modo. Ma chi viene da altri paesi, e questa è un'emigrazione negli Stati Uniti sconosciuta, per questo ho fatto questo filmato, sono gente che è appunto, da come hai visto, dall'Africa, dal Medio Oriente, dall'Asia, e loro non potendo entrare con i loro passaporti, che fra l'altro molti di loro acquisiscono appunto attraverso questa organizzazione di trafficanti umani, diciamo, che gli procurano i passaporti, il primo visto, il biglietto, poi degli aiuti sul posto per prendere gli autobus, passare le altre frontiere. Quindi loro, non potendo entrare direttamente in Messico, per esempio, e poi andare negli Stati Uniti, assolutamente non parliamo per gli Stati Uniti o il Canada, loro possono andare in America solamente in paesi che gli permettono l'entrata, che sono piuttosto di manica larga con i visti, come il Brasile, ora soprattutto l'Ecuador, anche perché è più vicino dal Brasile, dovrebbero poi per risalire, e chi lo fa, soprattutto quelli che vengono dall'Africa, perché il volo è più corto per San Paolo, il Brasile, loro devono attraversare il Brasile, la Bolivia, il Perù, arrivare in Ecuador e poi andare in Colombia, arrivare su a nord della Colombia, dove c'è questo stretto di terra che è Panama. Questo devono farlo tutti. Quindi c'è chi arriva direttamente in Ecuador e allora ce l'ha più facile, perché poi deve semplicemente arrivare a nord della Colombia. Ora, questi stati che loro devono attraversare hanno una specie di accordo ormai, perché questi da 8-9 anni ne saranno passati più di 100.000, quindi è un'emigrazione di massa incredibile. Poi negli ultimi anni si sono aggiunti anche gli haitiani e i cubani. E tu sai che prima i cubani potevano arrivare negli Stati Uniti e chiedere subito asilo, cioè solamente il fatto che fossero cubani, però con Trump è anche quella possibilità lì si è chiusa. Quindi anche loro, se vogliono, devono venire illegalmente. Naturalmente con molti pericoli, no? Perché come viaggiano illegalmente, sono nelle mani di organizzazioni mafiose, devono pagare tutto in contanti, giornalmente, in antichi, quindi devono viaggiare con soldi, che li rende praticamente dei bersagli facili, perché tutti lo sanno ormai, che sono anni che fanno la stessa rotta. E quindi quando arrivano appunto al nord della Colombia, dove comincia Panama, c'è questa foresta incredibile, appunto la foresta del Darién, di cui io non avevo nessuna conoscenza, cioè sapevo già da anni, io ho vissuto in Sud America, che non ci sono strade lì, non si passa tra Colombia e Panama, perfino appunto la Panamericana si interrompe. Però non ho mai saputo di questo passaggio a piedi incredibile di questa gente. Mi ci sono imbattuto facendo ricerche sull'immigrazione negli Stati Uniti, praticamente quando ho fatto Roma, Texas, e mi è sembrata una storia assolutamente allucinante. Quindi da lì l'idea di fare questa cosa per farla conoscere più che altro. E lì questa selva è incredibile, perché è la selva pluviale, quindi è piena di serpenti, scorpioni, animali, fiumi, devono passare montagne, un po' più o meno quello che si vede nei filmati. E poi sono appunto vittime, o erano adesso da qualche anno, le varie mafie che operavano in quella zona, che erano la FARC, la Forza Rivoluzionaria Colombiana, che adesso non opera più come forza rivoluzionaria, però continua a stare là, ormai questi vivono in divisa, quindi fanno un po' la legge del Darién. Poi i commercianti di droga, perché lì passava la cocaina dalla Colombia a Panama e poi da Panama a su. E poi questi coyotes, quelli che portano gli emigranti, che all'inizio li imbrogliavano, li lasciavano, li abbandonavano nella selva, una morte, non si sa quanta gente è morta in quella giungla. E poi oltretutto bande di ladroni, i quali appunto coscienti che questa gente viaggia con i soldi, figurati. E cioè, succedevano cose terribili, io poi non le ho messe, insomma, interviste di gente che racconta appunto furti, lasciati tutti nudi nella selva, violentate le donne, uccise delle persone, insomma, poi gente che annega nei fiumi, visto si vede a un certo punto un fiume, una storia così tragica. Poi dall'altra parte della selva, chi gliela fa, a volte sono 10 giorni, sono 7 giorni, non è che mi dicevo parto stamattina e stasera arrivo, no, lì erano giornate. E finalmente dall'altra parte si arriva in questo paese che si vede nei filmati, che è Panama, dove prima del Covid c'erano le forze armate panamensi che registravano tutti. Questi arrivavano e si davano per rifugiati politici, rifugiati in qualche modo. Le autorità panamensi sapevano che comunque questi continuano ad arrivare, non li potevano non far entrare. E quindi la politica di tutti questi paesi è stata dare questi visti, che loro chiamano visti umanitari. Che questi arrivano e danno un visto di 2 settimane, tempo di attraversare il paese e andare nel prossimo, che nel loro caso sarebbe Costa Rica, poi Nicaragua invece non li fa entrare, lì devono prendere la parola per arrivare negli Stati Uniti. Poi, cioè, una volta passato il Darién non è finita, capito? Io mi sono fermato lì, però poi devono attraversare il Centro America, il Messico, e quelli che arrivano si trovano davanti la frontiera americana. Già in Panama gli americani aiutavano i panamensi e gli davano tecnologia di riconoscimento, fotografie delle pupille, tutte queste cose, insomma, per sapere un po' chi è questa gente. però adesso con il Covid invece sono rimasti bloccati lì, ma questi continuano ad arrivare, quindi quelli che stanno lì non se ne possono andare e ogni giorno arrivano dei nuovi da lì, quella situazione che hai visto, che la gente del paese non li vuole più. Prima la gente era ok, perché questi bastavano, compravano acqua, compravano da mangiare, questi sono per loro e ripartivano. Adesso ne sono rimasti bloccati di lì, praticamente sono diventati più dei residenti, no? C'è un grosso problema. Poi arrivati comunque sia fra la frontiera Messico e gli Stati Uniti, non è che arrivano lì e entrano, no, manco per niente. Trump li ha lasciati tutti fuori, per esempio. Adesso con Biden si è aperta un po' la, diciamo così, l'entrata dei rifugiati, quindi ne chiamano 25 al giorno a Tijuana e 25 al giorno a El Paso. Questa gente deve fare richiesta di asilo, però poi deve aspettare fuori del paese, lo chiamano, quindi sia a Tijuana che a El Paso sono i 200. Potrebbero farne entrare 300 al giorno, che sarebbero 600 in totale, ma al primo momento ci vanno piano. Poi gli americani hanno un grosso problema adesso, perché arrivano bambini, arrivano i minorenni, ma in enorme quantità. Adesso ce n'è più di 4.000 alla frontiera. Trump se ne fregava, li metteva in gabbia, ma Biden ha fatto una politica umanitaria, quindi, che produce problemi politici interni, i repubblicani già stanno dicendo no, ecco, si è riaperto le frontiere, eccetera, eccetera. E a me sembrava che Darien fosse questa cosa proprio al centro, questo modello che questa gente deve passare. È una storia molto tragica, no? Mi faceva pensare alla rotta balcanica fra le montagne e la neve, e questo completamente l'opposto, la rotta panamense fra l'umidità tropicale e tutti questo tipo di pericoli, ecco. Questa è un po' l'idea del filmato. Documentario Darien, una rotta fantasma su Arcoiris TV. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Paci del collettivo di filmmaker Opponiamoci, che è il regista di questo lavoro. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille della telefonata e sì, risentiamoci presto. Con Lucio Cascavilla, co-regista del film The Years We Have Been Nowhere, di cui è iniziata una campagna di crowdfunding. Lucio, ben trovato. Buongiorno a tutti, ciao, sono a Freetown. Ci racconti un po' di questa operazione? Io sono il co-regista insieme a Mauro Piacentini. Al momento abbiamo iniziato a girare, abbiamo cominciato a girare un paio di giorni. E abbiamo deciso di raccontare la storia dei deportati, perché io quando sono arrivato qui a Freetown un anno e mezzo fa ho cominciato a frequentare un'associazione che si occupava di questo ed ero all'oscuro della cosa, quindi ho cominciato ad ascoltare le loro storie, storie di persone che si erano trasferite in Europa o negli Stati Uniti, persone che avevano costruito famiglie, avevano cominciato a lavorare, poi ad un certo punto, a causa di problemi quali il non rinnovo del permesso di soggiorno o la perdita di un lavoro, queste persone sono state prese e riportate indietro, riportate a casa, un posto che avevano lasciato qualche anno prima, in alcuni casi anche qualche decennio prima, e si sono ritrovati stranieri in patria. Anche perché qui in Sierra Leone, o comunque nell'Africa occidentale, il sogno di tutti è quello di andare nella terra, come si dice in inglese, dove c'è milk and honey, quindi del miele e del latte, dove tutto è più facile, dove tutto è più ricco, per costruirsi un futuro. E quindi chi ritorna indietro, soprattutto se è stato deportato, viene definito un perdente, quindi viene rifiutato ben due volte. La prima volta nel paese che si è scelto come paese adottivo, quindi che può essere l'Italia, l'Inghilterra, la Germania, la Francia o la Spagna o anche gli Stati Uniti, e poi la seconda volta quando rientra qui a casa e i propri parenti, gli stessi genitori, i fratelli, non lo accettano per quello che lui effettivamente è o effettivamente ha poi fatto in Occidente. Questo ci ha posto davanti alla scelta di voler raccontare questa storia, di voler raccontare queste storie e di fare presente al pubblico occidentale che cosa significano quelle orribili parole aiutiamoli a casa loro. Anche perché io all'inizio ho scoperto che l'Italia non aveva fatto nessuna deportazione qui nella Sierra Leone, ma semplicemente per un motivo, perché in Italia non c'è una rappresentanza diplomatica della Sierra Leone. Ho scoperto nel cercare informazioni per rendere quanto più oggettivo possibile questa storia e questo documentario che l'Italia esegue tantissime deportazioni che però in invece di riportare le persone che arrivano in Italia nei propri paesi d'origine, vengono portati indietro in Libia, quindi addirittura senza che ci sia una reale tutela di quello che è l'essere umano e di quelli che sono i diritti umani basilari, perché la Libia chiaramente non dà tutta una serie di sicurezze a livello di tutela di queste persone, che poi vengono maltrattate, vengono abusate a seconda di quello che è il paese di origine e a seconda di quello che sono i soldi che loro possono dare a quelli che sono i carcerieri. Come avete scelto i vostri interlocutori? Sono nati da incontri che sono stati fatti da me inizialmente e poi successivamente anche da Mauro, perché io ho conosciuto questa associazione che si occupava di loro. L'associazione è formata da ex deportati che si occupano di nuovi deportati, perché gli ex deportati sono gli unici a sapere che cosa accadeva ai deportati, quindi questa doppia esclusione sociale, quella nei paesi d'adozione, quindi in Occidente, è quella a ritorno in patria quando si viene marchiati da una grossa lettera sulla schiena che è quella del deportato. Spesso i bambini cantano per la strada quando li vedono: il milionario ha fatto bancarotta, per giustificare il fatto che sono rientrati a casa. Che quadro ne viene fuori? Chiaramente terribile, quello di persone che non hanno accesso ai diritti umani. L'associazione con la quale collaboro ripete sempre una cosa: è chiaro che sarà impossibile interrompere le deportazioni, ma queste devono essere fatte con dignità, devono lasciare che l'uomo possa accedere ai propri diritti. Spesso i deportati vengono pestati, picchiati, ammanettati, bendati, imbavagliati e vengono riportati a casa, contrariamente a quella che è la loro volontà. E in questa maniera loro non possono più ritornare a visitare le famiglie, come cantavano tanti anni fa i 99 Pose, quando io ero un pochino più giovane. Si parla proprio di famiglie disgregate che non si possono più rincontrare, quindi padri e madri che hanno lasciato i figli indietro in orfanotrofi o affidati a famiglie di conoscenti e che poi sono riusciti ad adottare questi bambini. Ci dai tutti i riferimenti web? Noi siamo su GoFundMe, The Years We Have Been Nowhere, ci trovate con questo nome su Instagram, su Twitter, su Facebook, mettete mi piace dappertutto, se volete fare anche una donazione noi non ci offendiamo assolutamente, e il nostro sito è tywhbn.com, anche.it. Quindi The Years We Have Been Nowhere, e avrete tutte quante le indicazioni. Oppure ci cercate come Lucio Cascavilla e Mauro Piacentini e siamo lì online a disposizione per chiarirvi e aiutarvi se avete dei dubbi. La campagna di crowdfunding per il documentario The Years We Have Been Nowhere. Un saluto e un ringraziamento al coregista Lucio Cascavilla. Un abbraccio e in bocca al lupo, a risentirci presto. Ciao, grazie. Buona giornata a voi. Con Tiziana Barillà, autrice del soggetto del docufilm Non Mollare, di cui è partito ora il crowdfunding per il progetto. Tiziana, ben trovata. Ciao Federico, buongiorno a te e a chi ci ascolta. Ci presenti il progetto? Ci provo a presentare il progetto, perché è un progetto veramente collettivo e complesso, quindi provo a farmi interprete di tutto questo processo collettivo. L'idea parte da me, Gabriele Vilardi, il regista Emiliano Barbucci ci ha seguito a ruota, come si suol dire, e siamo tutti e tre dei, diciamo, profondi terroni. Uno di noi tre, Gabriele Vilardi, è appunto molfettese, e confrontandoci da un po' di tempo ci diciamo: com'è possibile che uno degli intellettuali più illuminante in questi giorni sia così sconosciuto, malinterpretato? E quindi ci siamo imbarcati in questa avventura, perché riteniamo che Gaetano Salvemini sia veramente una voce oggi preziosissima nell'analisi del presente, non quindi una rivendicazione del passato. Ci racconti anche un po', ecco, della sua figura per chi non la conoscesse? Il professor Gaetano Salvemini è conosciuto praticamente, io penso, da un po' tutti gli italiani e tutte le italiane come appunto un grande storico, in qualche caso un antifascista. La valenza forte di un personaggio come questo è stata per una lunghissima vita la capacità di essere un uomo veramente libero da ogni dogma, capace di dissentire anche dalla sua stessa parte, quindi un uomo con una grande lucidità. Dovessi sintetizzarlo in una frase, ecco, Gaetano Salvemini è quello che ha sempre detto l'indicibile. possibile in questo paese e fuori, sia ai tempi vigevitti dell'Italia prefascista, sia durante l'Italia fascista e soprattutto dopo, con la ricostruzione di un'Italia, insomma, con una grande retorica di ripresa, e lui invece seppe essere molto critico anche in quella fase, denunciando cose che oggi sono sotto i nostri stessi occhi. Ne dico solo due: l'enorme corruzione e immobilismo che affliggono il sud dell'Italia, che di fatto è diventato un modello per l'intero paese ormai. Come avete deciso di strutturare questo lavoro collettivo? Questo è una parte, insomma, che riguarda soprattutto chi si occupa della produzione in questo momento, quindi Bofilm ed SMK Factory sono entrambe case di produzione indipendenti di Bologna, che però hanno sposato appieno questo progetto dei Terroni, come ti dicevo prima, e ecco, loro hanno costruito, credo, veramente una strategia produttiva intelligente, partendo da un'esigenza collettiva, che era quella appunto dell'indipendenza totale. E quindi siamo partiti col crowdfunding, come dicevi tu prima, con una produzione popolare. Chiediamo, insomma, di partecipare anche con delle piccole quote da 10 euro, ma come veri e propri co-produttori, quindi anche con non il ringraziamento ma il nome nei titoli di coda. Ecco, questo è un modo politico anche di sviluppare il progetto, per cui il nostro primo, come dire, committente saranno tutte le persone che decideranno di sostenerci in questa raccolta fondi, che per noi è il primo ciak che speriamo di battere, insomma, in autunno. Su quali aspetti volete centrare l'attenzione? È difficile centrare l'attenzione su pochi aspetti, perché ce ne sono moltissimi, e direi che sulla costruzione narrativa cercheremo di essere il più salveminiani possibili, tenendo strettamente legati il presente e il passato, e quindi una lettura critica di entrambi, che comunicano e ti danno, insomma, un pensiero critico migliore. D'altra parte, noi faremo rivivere Gaetano Salvemini per tornare a Molfetta per il suo 150esimo compleanno, perché in fondo lui è il grande intellettuale europeo che fa parte di tutta una serie di quegli intellettuali che in quel periodo sono stati cosiddetti esuli, gli esuli antifascisti, quindi quello sarà indubbiamente uno degli aspetti principali del docufilm. La scelta di questo titolo? È il titolo della rivista clandestina antifascista durante la propaganda, insomma, dominante del ventennio italiano. Per risponderti con una battuta dello stesso Salvemini, lui diceva: non ci davano la libertà di parola, ce la prendevamo. Ecco, Non mollare è la testata clandestina antifascista nata come forma di resistenza, che è quel proclama però fatto di carta e inchiostro. Non mollare, progetto di crowdfunding. Un saluto e un ringraziamento a Tiziana Barillà, autrice del soggetto di questo docufilm. Nel salutarci ci dai anche tutti i riferimenti web? Grazie a Gabriele Vilardi, che gestisce un po' tutto. Trovate la pagina Non mollare il film in tutti i canali social possibili e immaginabili, e lì ci sarà la possibilità anche di collegarsi dai canali WhatsApp e Telegram per essere aggiornati nel caso in cui si voglia seguire questa avventura, che sarà lunga. E soprattutto la piattaforma Produzioni dal Basso, che ospita e sostiene il nostro progetto, lì è possibile individuare la voce Non mollare e sostenere dalle 10 euro in su, come dicevo prima, questo progetto. Grazie a chi vorrà farlo. Noi diciamo sempre che l'eredità di Salvemini è un'eredità collettiva, e quindi stiamo cercando di raccoglierla insieme. Un abbraccio, in bocca al lupo, e a presto. E viva il lupo. Grazie Federico. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.